Sono partito, pensate che avevo 16 anni. Sì, portavo... col papà? No, no, è tramite mio cugino. Sì, te che portavo... lui faceva cos'è, anche lui il muratore. Te, sì. Ero piccolino, te magretino, portavo questi cazzo di secchi. Sì. Ma lì era anche un modo per far palestra, diventavo sì. matto io. Però bellissimo, muratore per me è stato il mestiere più bello che ho fatto. Sì. Dal mio punto di vista. E quanti anni è che hai detto? 18 anni l'ho fatto. Incredibile. E ti va di raccontarmi quella storia di quel manovale russo che avevi fatto una volta, non sai, avevi fatto un incontro col manovale russo? Sì, ma a braccio di ferro? Non mi ricordo, ma so come avevi raccontato un sacco di anni fa. Perché ne ho fatti due una volta, sì? Avevo fatto a braccio di ferro, invece una volta quello che c'era stato, lui che l'avevo addormentato. Cosa avevi fatto? Racconti. Praticamente stavamo, no, stavamo giocando, lui diceva che era il più forte, diceva, e gli faccio, dai proviamo a fare un po' di lotta, siccome avevo fatto lotta greco-romana, te, l'ho preso dal dietro, l'ho preso così, l'avevo chiuso, ma io non mi ero accorto che stava svenendo, alla fine è andato giù secco. E quanto pesava questo guadagno? Io sarà stato 110 kg tutti. Ma su un cantiere qua? Sì, sì. Qua a Milano? Ma sui ponteggi poi, come ti viene giù? Oh, fantastico. Ma davvero facevano quelle cose qua, E se dovessi dire un messaggio, lasciare un messaggio a un giovane, cioè tipo cosa ti ha lasciato questa professione, perché fare questo mestiere? Allora, secondo me è un mestiere bellissimo, a parte economicamente ti frutta, e poi secondo me è un mestiere sano.